Ernesto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei la sa lunga sulle riunioni di condominio? Abbastanza, sono amministratore di condominio da un po'. Dove amministra? In che città? Io sono in provincia di Caserta. In provincia di Caserta. Quindi lei ne ha viste di cotte e di crude. L'amministratore lo sa che è la persona più maledetta all'interno delle riunioni di condominio, che tutti sospettano che lei abbia delle pastette con alcuni condomini, quindi ci sono delle faide, delle suddivisioni, delle divisioni all'interno del condominio pro e contro la sua figura. È assolutamente così, è la pura verità, e la verità è questa. Dunque, io praticamente durante le riunioni di condominio sono stato anche sistematicamente minacciato di morte, non una Minacciato di volta morte. solo. Beh, Sì, e non una volta sola. essendo un'area, adesso non voglio discriminare, ma visto che Saviano in questo momento è il mentore di tutte le vicende che accadono alle sue parti, è in zona di Sandokan, quindi una minaccia di morte anche in una riunione di condominio non è che faccia molto piacere. Non fa molto piacere, però fortunatamente poi all'inizio ero un po' spaventato, poi mi sono reso conto che proveniva da una persona che non era così pericolosa come sembrava, anche se ha conservato questo tono minaccioso e questo E qual era il atteggiamento. motivo per cui lei meritava la morte, secondo Allora, questo io suo? merito la morte perché non volevo fargli ritinteggiare la scala, la tromba delle scale, senza fare prima una riunione. A lui voleva Oppure autonomamente allora. tinteggiare le scale. Esatto, lei autonomamente aveva deciso che il condominio doveva cambiare volto con il suo arrivo e che quindi dovesse tinteggiare le scale, tinteggiare le ringhiere, i garage, i cancelli, tutto quello che c'era da fare doveva farlo lui e in autonomia. Senta, un'altra figura tipica delle riunioni di condominio è il pazzo di condominio, è quello che naturalmente è sempre contro tutti, è quello che vuole denunciare tutti, è quello che ha dei problemi con tutti, è quello che rappresenta una sorta di elemento anarchico, di scheggia impazzita, che tutti detestano, che però, devo dire, movimenta notevolmente le riunioni. C'è un tizio da noi che usa di solito la mazza baseball così per cercare di convincere gli altri Cioè, viene con la condomini. mazza da baseball alla riunione di condominio. Sì, la appoggia dietro a un anfratto, insomma, la tiene nascosta per tirarla poi fuori nel momento in cui gli può servire per Lei sta minacciare. scherzando, sembra di vedere il film di Fantozzi. Assolutamente no, ma Viene guardi con che la mazza da baseball. Fantozzi mi fa un baffo, guardi, glielo assicuro. Io sono un cultore di Fantozzi, ma in questo caso veramente mi fa un baffo.